Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E parliamo nel Last Minute di una bella sorpresa avvenuta nell'estate appena trascorsa. Intanto tornando in diretta, dopo il GR di Radio Popolare, abbiamo parlato subito nell'immediato del ricordo d'estate per arrivare poi agli appuntamenti già iniziati al binario 69. Come ben sapete è legato tra i club, fra i diversi club, all'edizione del Bologna Jazz Festival, e per quanto riguarda un'apertura autunnale già iniziata da ieri con una formazione di Avant Modern Jazz, gli Hobby Horses, prosegue con un calendario molto molto ben forbito tra quello che è AC Jazz, Jazz, Afrobeat, Funky, Soul and Hip Hop. Quindi, come ho detto, come in Express, la parte estiva, binario 69 già partito da ieri, pronto ad accogliere di nuovo, regalare magia, tanta musica e un motivo ulteriore di incontro. Allora, per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, saranno protagonisti Muito Caballa, di cui vi farò ascoltare un brano. È un insieme con sede a Colonia che trae musica da diverse influenze, come ho detto afrobeat, jazz, soul, hip hop, tra le fonti di ispirazioni di questa formazione. Vi farei ascoltare un brano, appunto. Il concerto è questa sera alle 21:30 e quindi vi aspetto, poi vi spiego perché vi aspetto a binario 69. Ascoltiamo un brano di Muito Caballa, poi torniamo in diretta per questo Last Minute, ricordo, a binario 69 in via De Caracci per questa sera. Intersezione a un chiaro ritmo afrobeat, Muito Caballa questa sera alle 21:30, la serata inizierà ovviamente prima, binario 69, ieri gli Hobby Horses, seguiremo poi l'insieme con il Bologna Jazz Festival. Intanto questi suoni che già avevo percepito fra le tante nell'eterogeneità di proposte al Comini Express per l'estate appena trascorsa, come ho detto, una bellissima sorpresa in un calendario estivo molto molto particolare, denso di appuntamenti che procedono al binario 69. presentazione al Bologna Jazz Festival ho avuto la possibilità di fare due chiacchiere con Luca Livoti del Binario e appunto parleremo di questi appuntamenti che vedranno l'insieme quanto Binario 69, come ho detto, fra i club selezionati e che partecipano alla kermesse bolognese. Sentiamo appunto questa conversazione. Con Bologna Jazz Festival, un'organizzazione, un'estensione tentacolare, una grande attenzione per i club e anche una bellissima sorpresa, trovare in presentazione Luca Livoti di Binario 69. Ben trovato Luca. Ciao William, è una gran sorpresa anche per me, ma immaginavo tu ci fossi, non potevi mancare. Tra l'altro abbiamo passato anche parte dell'estate assieme con il progetto di Fondo Comini e lì ho avuto la possibilità di intuire un incontro, artisticamente parlando, tra una selezione di musica di modern jazz e allo stesso tempo di approccio, di diffusione, di ascolto che è raffinato e allo stesso tempo molto comunicativo. Sono queste le linee del Binario. Sì, mi piace come l'hai definita, hai fatto meglio di quello che potevo dire io. Si cerca di andare dalla ricerca di una raffinatezza musicale, cercando di evitare però la scontatezza di una programmazione di nomi magari più conosciuti. Quindi andare alla ricerca dello sconosciuto che però sia di qualità. Questo è fondamentalmente quello a cui vogliamo essere contraddistinti. Certo, per quanto riguarda questa edizione del festival, vuoi segnalare qualcosa per la rassegna e i concerti che toccate con questa sera? Abbiamo 5 appuntamenti insieme al Bologna Jazz, come ogni anno ormai, di consuetudine. Te li elenco un attimo, facciamo un elenco veloce. Da Venus Ship, gruppo più giovane degli Emong, quindi andiamo a pescare un po' anche nei jazzisti più freschi, senza che si offendano. Senza che si offendano. Più freschi di età. Poi abbiamo anche il quartetto con Dessie Tagliata, i Telnolice con Marraffa, sì, naturalmente, quelli li conosciamo, e poi il Max Puglia Quartet. Sono un paio di date, le ospitiamo per il Bologna Jazz Festival, che ci ha chiesto di ospitarle, le altre invece le organizziamo noi in collaborazione con loro, quindi sì, un bel mix. Ed è un, come ho detto, ricerca di gusto e nello stesso tempo capacità di comunicazione, rendersi accattivanti, anche se questa parola è un po' forzata, esatto, ma mantenendo quella che è una curiosità per trovare un pubblico attento. Abbiamo anche la novità del DJ set. Cavolo, ogni appuntamento jazz, soprattutto i giovedì, saranno accompagnati dal DJ set del grande Willy Groove. Alto, grande, alto, mi sembra. Grande in senso di alto. Esattamente, esattamente. Ed è un piacere, un onore, perché è un grande uomo di cultura musicale. E non solo. Ricambio, grazie per l'invito, è veramente una collaborazione pregevole. Io, Luca, ti auguro un buon festival e avremo modo poi di essere sul palcoscenico del Binario 69. A presto, grazie. Ciao, a presto William. Giovedì di portare selezione musicale, come potete ascoltarne, darò un assaggino insieme a Muito Caballa per quanto riguarda il concerto, poi avrò l'onore di essere spalla come selezione musicale, stiamo ascoltando The Lack of Afro dalla Freestyle Record, e beh, sarà in playlist, e poi anche sto provando sorprese a mia volta. Breath on me. E così, mettendo a posto i vinili e portando anche, per cambiare, la playlist estiva, ho ritrovato, a proposito di ricerca, la label Marina Record. No, non è quella Marina, è una label tedesca di ricerca nel funk, exotica, soul degli anni 70, anche fine 60. Un grande compositore, la sua orchestra, che risponde a nome di Peter Thomas, qua propone un grande classico degli Stones in versione un po' così, con le caratteristiche che vi ho elencate in precedenza. Se mi dite il titolo di questo brano questa sera al Binario 69, beh, vi aspetterò con una sorpresa, sarete miei ospiti, ok? Buon ascolto, aspetto la risposta e vi aspetto soprattutto questa sera a Binario 69. Qual è il titolo originale di questo brano, la scrittura dei Rolling Stones? Potete scriverlo al 333-180-9494. Aspetto le vostre risposte e aspetto voi questa sera a Binario 69. La colonna sonora di un film con Whoopi Goldberg, pezzo bellissimo, anche il film